9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno a tutti meno uno, il signore che stanotte mi ha devastato l'automobile con un punteruolo, evidentemente ben deciso a elevare con gli argomenti il confronto con le tesi sostenute dal sottoscritto. Vedete, io erano anni che non volevo un'automobile. E l'ho ripresa poi, perché giustamente mia moglie si lamentava, e ho detto vedrai che ho sperimentato quanto gli intelligenti avversari del mio pensiero a volte ricorrano a strumenti di questo tipo, perché quando stavo a Roma la macchina venne devastata per strada e ripresa questa bella cosa. Che devo augurarmi? Devo augurarmi che la mano dell'untore gli cada? No, non me lo auguro. Semplicemente sono abituato da anni ad avere a che fare con questo tipo di argomenti. Chiusa parentesi, oggi San Giovanni decollato del resto, e quindi è ovvio che, poiché è il giorno di festa di un martire senza testa, che finisce senza testa per come la pensa, non mi ci avvicino, sono un povero scioccone che ha delle idee che a non tutti non piacciono. E pur tuttavia fatemi dire che anche oggi Jim Morrison vi ricorda l'incontro con Monti in Germania nell'Euroquadro. Trovate sulla stampa italiana vasti pezzi sul perché e per come ci si interroghi sul fatto che il presidente della BCE Draghi non vada all'annuale conferenza dei banchieri centrali a Jackson Hole in Wyoming, e tutti pensino che questa settimana potrebbe avvenire qualcosa collegato all'ulteriore aggravamento della richiesta di aiuti spagnola che si è avuto ieri, anche se le ultime aste continuano ad andare bene, anche se questo mese di agosto in realtà ha incorporato buone attese da parte dei mercati, che continuano a pensare che la BCE farà il suo dovere, come aveva promesso Draghi, anche se i tedeschi molto hanno bombardato e continuano a bombardare. La politica italiana si complica perché, come era facile prevedere, la convergenza intorno alla riforma elettorale, che ne possiate pensare e ne pensiamo cose diverse, come abbiamo visto nella puntata che abbiamo dedicato lunedì a questo, è tornata a divaricare, il PDL da una parte, il PD dall'altra. La richiesta di Berlusconi, che trovate illustrata sul giornale di oggi, è sia la riforma elettorale ma voto a novembre. Lui vuole accelerare perché ha paura della sentenza sul caso Ruby, perché non vuole dare tempo ad altri di entrare in Parlamento. Ma oggi noi spostiamo la nostra attenzione da questo tema su un punto che riguarda invece il PD, che riguarda non solo il PD ma la sinistra italiana, e riprendiamo la riflessione. Io vi chiedo di intervenire per dire: date la vostra risposta al quesito di questi ultimi giorni, se volete un PD che resti che tenti una alleanza con Vendola o una con Casini. Bersani ha detto come la pensa dopo un'intera estate in cui la convergenza con il centro sembrava l'asse obbligato, e vediamo poi da dove parte questo dibattito. Dalle parole di Bersani che hanno riavvampato tutto, queste parole. Io me lo tengo Vendola, sì, prova a chiedermi se preferisco Vendola o Casini. Preferisce Vendola o Casini? Vendola. Ecco, queste sono le parole confermate da Bersani. parole che venivano dopo il grande incendio, dalle parole usate dal segretario del PD relative a Grillo. Un cambio di marcia secco, il desiderio di dire con Grillo non c'è niente a che fare perché Grillo è un fascista del web. Risposta di Grillo: sei un fallito, sei alleato di piduisti. Oggi in una lunga intervista Pier Ferdinando Casini, in un'intervista al Messaggero, replica per così dire a tutte queste considerazioni. Il titolo dell'intervista che ho trovato sul Messaggero è: noi, fabbrica dei moderati, con il PD una gara diversa. Casini, la sinistra sta facendo i conti con i suoi ritardi, ed è un'intervista che non riserva a Bersani delle risposte brucianti. Dice: Bersani deve sciogliere tutti i nodi oppure rischia di restare in mezzo al guado. Una lettura diversa e invece molto più polemica è quella che dà il Fatto Quotidiano, che apre con un titolo: la scelta del PD sì a Sallusti, il direttore del giornale berlusconiano, sì a Sallusti, no alla FIOM. E il catenaccio, il sommario sotto questo titolo recita: già dagli esclusi della festa del partito di Reggio Emilia si capisce in che direzione va il partito di Bersani. Porte chiuse a Di Pietro, Grillo e al sindacato ribelle, grande attenzione al centro di Casini e ai nemici di ieri che tifano grande coalizione. Ma la base è confusa e incredula. Questa linea, che ovviamente tenta di affondare il coltello nelle contraddizioni del PD, è sostenuta da un editoriale di Paolo Flores d'Arcais che recita: non vogliono un'altra politica. E nelle pagine interne poi c'è un'intervista ad Airaudo, il responsabile auto della FIOM, che dice: PD supponente ha abbandonato il lavoro, ci aspetta un autunno difficile, clima sociale rovente, e alle prossime elezioni, dice Giorgio Airaudo, spesso nostro ospite, ci saranno sorprese perché i lavoratori non resteranno a guardare. Un approfondimento del Fatto, nella festa del partito, titolo: niente dibattiti su TAV, Fiat e i debiti del comune. Un articolo di Marco Palombi: Bersani flirta con Vendola ma vuole sposare Casini, che votò le leggi vergogna. E il titolo che regge la doppia pagina, pagina 2 e 3, democratici ma senza gli operai. Alle feste di Reggio Emilia, Torino e Bologna non c'è la FIOM, ci sono però Maroni e Sallusti. Il vaffa di D'Alema al direttore? Il direttore è Sallusti, dimenticato perché c'è la grande coalizione. Allora, noi abbiamo deciso di chiedere a voi, tra gli ascoltatori, se siete o siete stati o siete e sarete ancora elettori, militanti qua del PD, di farci sapere in questa scelta, per così dire, Casini o Vendola, come la pensate, quale sia la vostra opinione. Ricordo tutti che il numero verde è 800 24 00 24, per i messaggi 349 238 6666. E poi abbiamo scelto qualche ospite per ragionare insieme a loro di questa ripresa in cui il PD sembra fare delle scelte. La scelta con Grillo è quella di oramai un contrasto totale, deciso anche nei toni, fine della convergenza estiva con unica strada quella del sostegno a Monti, e quindi replica dell'alleanza in Sicilia sul candidato Crocetta del PD, che ha avuto il sostegno immediato da parte di Casini, ma invece riapertura del confronto con Sel e la sinistra antagonista. Allora cominciamo a parlarne con Claudio Sardo, che è il direttore dell'Unità, che conosco da molti anni, e mio amico. Non so se lui si considera ancora tale, perché non vorrei che la sua automobile andasse a rischio, ma comunque lo ringrazio e lo saluto per essere qui con noi stamattina. Buongiorno Claudio. Buongiorno, buongiorno, certo che sono tuo amico. Allora, dal punto di vista del tuo osservatorio sul giornale fondato, l'Antonio Gramsci, eccetera eccetera, questa ripresa, questi toni di Bersani, innanzitutto ti sorprendono? Ti sorprende il tono su Grillo? Ti sorprende che dice: chiedetemi se voglio Vendola o Casini, no voglio Vendola, e così via? È un cambio di marcia che deriva dall'interno, dai sondaggi? Che succede? Ma la questione Vendola-Casini, secondo me non ci sono delle novità sostanziali. Il PD, Bersani conferma la sua linea di marcia. In fondo ha deciso di fare le primarie con un atto coraggioso e anche per certi aspetti un po' persino illogico, in qualche modo, perché ripropone delle primarie di coalizione che sono naturalmente si sono rivelate spesso un boomerang, quindi hanno degli aspetti abbastanza contraddittori sul piano della forma, però nella sostanza ha voluto compiere un atto che in qualche modo ridesse una certa legittimità alla leadership del centro-sinistra, della sinistra che insomma si candida a governare. Quindi questa scelta delle primarie comporta indubbiamente una collaborazione preferenziale con Vendola, con tutti coloro che si candideranno alle primarie. Il mio auspicio, ma qui è un fatto personale, è che se la legge elettorale finalmente uscirà da questa gabbia del maggioritario di coalizione, che ritengo sia veramente il male del nostro sistema della Seconda Repubblica, e quindi si torna come in tutto il mondo, diciamo, a fare delle competizioni elettorali sui partiti, a costruire i governi intorno al partito che arriva prima alle elezioni, come avviene in tutti i paesi dell'Occidente, io credo che coloro che partecipano alle primarie dovrebbero tendenzialmente formare lo stesso partito, cioè se è un processo che probabilmente non riuscirà a completarsi entro le elezioni, magari si completasse entro le elezioni, se no si dovrebbe completare dopo attraverso regole stringenti, però insomma se si candidano alle primarie Tabacci, Bersani e Vendola vuol dire che devono fare lo stesso partito. Questo, diciamo, sarebbe un'operazione di igiene, di pulizia, di ecologia del sistema per uscire dalla Seconda Repubblica. La prospettiva dell'alleanza con Casini si pone su un piano parlamentare, però secondo me questa strategia è confermata. La novità semmai è il fatto che per la prima volta in modo così esplicito si affronta un tema di cultura politica che è quella della, insomma, c'è un populismo che è cresciuto a sinistra, così come è cresciuto a destra enormemente in questi anni. Ecco, questa battaglia politico-culturale va fatta in modo esplicito, non più lisciando il pelo, essendo ambigui, confusi. È chiaro che nella prospettiva di accettare la sfida di governo, io penso che bisogna dire con chiarezza che i toni del linguaggio violento sono inaccettabili, che non è possibile uscire dall'euro, dire che gli immigrati non servono per l'economia, seminare paura e sfiducia. È chiaro che un partito che si candida a governare deve seminare fiducia, deve dire che le imprese servono per la crescita del paese, deve dire che il lavoro insomma, deve essere valorizzato più di quanto non lo sia attualmente. Deve sviluppare non solo delle politiche, ma anche deve lanciare dei messaggi politico-culturali che orientino, che diano fiducia alla crescita del paese, che valorizzino le energie positive. Su questo penso che, siccome l'unione è una cosa di cui gli italiani hanno memoria e ancora ricordano con sfiducia, con terrore che possa riproporsi quello schema lì, io penso che il compito della sinistra, del centro-sinistra, sia fare chiarezza con quelle componenti che ormai sono immerse in un populismo mediatico, giustizialista, che insomma ne rallentano la proposta di governo, la forza. Certo, uno si può domandare, ma dov'è la massa critica per poter avere il consenso per sostenere un'azione di governo? Ecco, io credo che questa sia veramente la sfida del PD. Io penso che il PD, il centrosinistra, debba necessariamente proporsi come governo alternativo alle prossime elezioni. Io penso che se dovessimo riproporre la grande coalizione dopo le elezioni sarebbe una sconfitta per il paese. Certamente sarebbe una sconfitta politica del PD essere in vantaggio e non riuscire a organizzare un governo capace di stare al tavolo in Europa e di guidare l'Italia verso una nuova fase di crescita. Allora, alcune osservazioni volanti. Nell'elenco dei partecipanti alle primarie, dei quali ha detto Claudio Sardo, se Tabacci, Bersani e Vendola partecipano alle primarie, poi dovranno fare uno stesso partito, magari non ce la faranno per le elezioni, ma questa ha senso che avvenga. Una prospettiva europea, ti sei dimenticato Renzi. È un caso, una necessità? No, mi sono dimenticato. No? Okay. Volevo dire anche Renzi, ovviamente. Cioè, Renzi lo consideravo già del PD, ha voluto lanciare questa sfida. Come tu sai, diciamo, nello statuto del PD non sarebbe nemmeno possibile che un secondo candidato del PD si candidasse si candidi alle elezioni, alle primarie, però insomma questo è stato convenuto. Ok, seconda osservazione, non è rientrato per il momento nei nomi che hai fatto di Pietro. Di Pietro che oggi rilascia un'intervista, per esempio su Repubblica, riforma elettorale, l'argomento, titolo dell'intervista: sento aria di truffa ai cittadini, staneremo i partiti sul Mattarellum. In questo ragionamento complessivo che il PD e la sua segreteria ha avviato, Di Pietro dove sta? Sta con quelli oramai da avversare tipo Grillo, per il linguaggio che usa, per l'atteggiamento che ha avuto nei confronti del governo e del PD, oppure non si cita insieme a Grillo, come a dirgli ragiona e la porta resta aperta? Ma naturalmente io non sono il PD, sono un osservatore. No, no, dal tuo punto di vista. Dal mio punto di vista Di Pietro ha già consumato una rottura che secondo me è irreversibile in questa prospettiva elettorale. Non solo diciamo, ha assunto un atteggiamento nei confronti di Monti che non ha nessuna ragione, insomma è stata un'opposizione totale, integrale, ha assunto nei confronti del capo dello Stato una posizione che secondo me è inaccettabile per il PD, che vuole essere il partito della Costituzione, vuole essere il partito delle istituzioni, perché la vicenda del capo dello Stato non è semplicemente un caso giornalistico di gossip o di gossip mancato. La delegittimazione politica che è stata tentata, un'operazione contro il capo dello Stato, porta a delegittimare questo finale di legislatura e potenzialmente punta a delegittimare la prossima legislatura, quella che nascerà. Ma è vero che Di Pietro continua a fare una campagna, ad esempio adesso ostile al cambiamento del Porcellum, perché dire Mattarellum oggi vuol dire cercare di mantenere la legge elettorale attuale e sostenere che il Parlamento attuale è inficiato, incapace, imbroglione. Quindi in buona sostanza è un'equiparazione a Grillo, insomma, con tutto le storie sono diverse, le modalità sono diverse, però è più un no che un sì, un no deciso che un sì in forse, quello riservato a Di Pietro da parte di Claudio Sardo, che io prego di aspettare lì perché ci ha raggiunto per pochissimi minuti in autostrada Giuseppe Fioroni, deputato del PD, che saluto e ringrazio. Buongiorno Fioroni. Buongiorno. Ecco, le chiedo un'opinione su le ultime dichiarazioni di Bersani, che dice chiedetemi se tra Casini e Vendola io che cosa preferisco e chi mi tengo. L'abbiamo riascoltata dalle sue parole e la risposta è mi tengo Vendola. E poi prima le sue dichiarazioni su Grillo. Però ricominciamo da Casini e Vendola. Lei che opinione si è fatta e come commenta questa scelta? Ma innanzitutto io il gioco della torre mi sembra sempre chi salvo e chi non salvo, un gioco molto semplicistico alla ricerca di valutazioni di tipo emozionale. Io credo che Casini, intanto riconosciamo su Bersani, riconosciamo un fatto, è l'unico segretario del PD che testardamente e con pervicacia vuole affrontare delle nuove primarie per scegliere il candidato presidente del Consiglio, quando non solo il nostro statuto, ma 3 anni fa io ero avversario di Bersani, abbiamo fatto una larghissima consultazione tramite primarie per scegliere il segretario e il presidente del Consiglio, e quindi credo che ora il coraggio di tornare in pista gli va anche dato l'agio di poter farsi un po' di campagna elettorale. Detto questo, io credo che Bersani prosegua, io la interpreto in questo modo e non potrebbe essere diversamente, e non è diversamente dal mio punto di vista e poi anche quello del PD. Noi abbiamo lanciato fin dall'inizio l'idea di riorganizzare una vasta area riformista, e non mi si venga a dire che non l'abbiamo riorganizzata, perché l'abbiamo riorganizzata partendo dal presupposto di non mettere insieme più il diavolo e l'acqua santa, e di dire cose agli italiani che sono anche quelle che passiamo e quelle che facciamo, di tenere fuori chi non ha senso di responsabilità istituzionale e chi non ha cultura di governo. Per questo motivo Di Pietro è fuori e si è chiamato fuori, per questo motivo non c'è Rifondazione, non c'è la federazione della sinistra, per questo motivo siamo distinti e distanti, poi discuteremo sulla intensità delle forme verbali per dimostrarla con Grillo, ma abbiamo e stiamo completando la riorganizzazione di quest'area riformista che deve allearsi con un'area moderata nel nostro schema per dare un nuovo centrosinistra a 50 anni di quello che fece Moro per aprire la stagione dell'innovazione e del cambiamento. Il tema è: ma questa aria moderata nel nostro paese esiste? Quando noi parliamo di aria moderata non parliamo del 5-8-6% dell'UDC, parliamo di un'area molto più vasta che deve essere organizzata per incrociare quei 50% di elettori che non vanno a votare, che una parte è il lavoro che farà il PD, l'altra è quel lavoro che da sola l'UDC non è riuscita a fare. E per questo io vedo due limiti: da una parte vedo il limite di un'orchestra che non ha scoperto ancora l'armonia e che è ancora prigioniera di tanti individualismi e di tante ambizioni di solisti che ci sono fortunatamente in un'area molto vasta e molto ricca di personalità. La seconda è che un'area di questa natura deve avere la capacità di scegliere. Non possiamo ritornare alla logica di dire si sceglie dopo le elezioni. Ormai ho visto che tutti commentano e spiegano De Gasperi, ma se De Gasperi una cosa ha introdotto con chiarezza nella cultura politica è perché il progetto di paese e l'alleanza illustrata agli elettori prima del voto sono la cifra dell'affidabilità, della credibilità, della durezza di una classe dirigente che si impegna con gli elettori. Ritornare a una formula dove c'è una legge che non ci consente di dire agli italiani: forse sceglierete un po' di più il deputato e il senatore, ma non saprete mai chi governa o chi è il presidente del Consiglio, mi sembra oggettivamente un ritorno indietro. La pervicacia nel premio di maggioranza al partito o di un premio di maggioranza esiguo da dare al partito, io la leggo in questo modo. Chi tiene, io non condivido una grande coalizione tour, ma chi la condivide dica agli elettori che può fare una grande coalizione con quali soggetti politici ci si presenti prima del voto e si indichi chi è il presidente del Consiglio, altrimenti tutto questo dà l'idea della furbizia. E mi consenta, se la legge elettorale non si fa è perché credo che nel retropensiero di Berlusconi ci sia l'idea che qualcuno ha in testa di fare una legge elettorale che alla fine, consentendo a tutti di stare insieme non per scelta ma per necessità e per opportunità, e per dire agli italiani: non ci avete fatto vincere, siamo costretti a stare insieme, in qualche modo salvi tutti i berlusconiani uccidendo Berlusconi politicamente. Allora, il dubbio di Fioroni, come vedete, però è un dubbio, parlamentare deputato del PD, è un dubbio che secondo me è un dubbio ragionevole. Io poi io adesso lo devo ringraziare perché ci deve lasciare, andiamo in pubblicità, torniamo alla mia domanda secca a Claudio Sardo. È che l'impressione purtroppo è stata alimentata per mesi all'opinione pubblica italiana che ci fosse una riforma elettorale fatta apposta perché nessuno vincesse, perché era l'unica maniera per così dire far passare ancora un po' di tempo e qualche sentenza magari, perché così Berlusconi diventasse ancora più inattivo come mina per la politica italiana e nel frattempo poi si tornasse a sostenere esattamente la formula di emergenza tecnica. E solo nelle accelerazioni di queste ultime riprese di politica dopo la pausa ferragostana, che sembra più non essere così. Bersani ha detto: noi ci candidiamo a un governo politico. Alfano ha risposto la stessa cosa dall'altra parte. Però la domanda è: si può tenere insieme un ritorno di alleanza, tendenzialmente addirittura una riapertura del discorso, tornare allo stesso partito con Vendola e poi articolare un'alleanza parlamentare con Casini, dopo non essersi impegnati di fronte agli italiani sul nome di un presidente del Consiglio? Questo interrogativo di Fioroni finale secondo me è un interrogativo molto pesante. E poi ma chi vi ci garantisce che all'ultimo secondo Di Pietro e Grillo non decidano, padroni come sono, pressoché incontrastati dei candidati che poi esprimono nei loro partiti, di decidere di mettersi insieme e di correre loro per il premio di maggioranza come primo partito? Siamo proprio sicuri che gli elettori potenziali e i tantissimi, quasi uno su due negli sondaggi italiani, che dicono: o non so chi votare o non vado a votare, i vecchi partiti di fronte a lo sdoganamento di un epiteto come fascista non dicano: beh, questa è la reazione di una vecchia modalità che mi rende possibile cambiare dal malessere, dal malcontento, dall'incertezza se andare a votare o meno. E allora però, se quella è l'unica scopa per far piazza pulita, io la impugno, la scopa di Grillo e magari di Grillo e Di Pietro insieme. Siamo sicuri che non funzioni questo? Io non lo so, è un dubbio che ho forte, perché nei sondaggi che vedo che quel rischio è tutt'altro che un rischio così immaginario, ipotetico. Gli elettori di Grillo si vedono come gente che ha fatto un punto a capo rispetto ai vecchi partiti, si vedono come una risposta all'antipolitica delle mancate risposte dei problemi dell'Italia in questi anni, più che come l'espressione di una patologia o il fascismo. E non so se a milioni di italiani che hanno iniziato a guardare al Movimento 5 Stelle, quell'epiteto sia quello giusto per indurli a riflettere sul programma che loro manca rispetto a ciò che loro vedono arrivare dal vecchio mondo delle coalizioni e dei partiti. Pubblicità, torneremo su questo. 9 in punto. Allora, alcuni dei messaggi degli ascoltatori. Scusate, sentirete un rumore di un microfono spostato perché sono cieco e quindi non riesco a leggere in questo momento i messaggi. Allora, Grillo non si può alleare con chi ritira i rimborsi elettorali e chi non rinuncia al vitalizio. Sono stato un altro messaggio, sono stato socio fondatore del PD ed eletto alle prime primarie, ma anche delegato FIOM. Mi sono appena dimesso dal partito rimettendo la tessera del PD perché mi riesce impossibile tenere insieme la linea del mio sindacato con quella del mio partito. Fine della cinghia di trasmissione, ci parleremo da diverse sponde. Firmato, dico solo il nome, si chiama Natale, ma sono tutti messaggi. Questi politici vengono firmati, a differenza del più di quelli magari rivolti a me di improperi che non si firmano. Dopo 40 anni di PC, DS e PD, ci scrive un altro ascoltatore, Mimmo, adesso per me la scelta è stata fatta da diversi mesi ed è quella del Movimento 5 Stelle, siamo in tanti, grande stima per questa trasmissione e questa fascia oraria, però oramai la scelta è chiara, dopo tanti anni di impegno nel partito e molti messaggi in cui si chiede appunto di parlare più di cose concrete per non dare l'idea che il PD sia una cosa politicista. Non è stato il PD, sono stato io a scegliere oggi il tema impostandolo su alleanze o meno. Iniziamo ad ascoltare anche alcuni ascoltatori. Luigi da Napoli, prego Luigi, più breve siamo tutti quanti meglio è. Sì, buongiorno, mi ascolta? Sì. Mi ascolta? Prego, proceda. Buongiorno signor Giannino, io chiamo da Napoli, sono napoletano. Voglio dire che questi signori politici sono lontani anni luce dai problemi di noi italiani. Pensano alla riforma elettorale che non ce ne frega assolutissimamente niente. Il problema cardine dell'Italia, ve lo dice un napoletano modestamente, con il suo permesso. Allora, le tasse, le ruberie e i sprechi sono i cardini dell'Italia. L'IMO ci ha massacrato, quindi i politici adesso se ne vanno a casa. Sciopero del voto totale da parte degli italiani. Quindi lei addirittura dice sciopero del voto, neanche andare a votare Grillo, Luigi. Grillo in estremis, l'unico che merita un briciolo di fiducia è Grillo, però non si sa il Grillo quando salirà al potere, si sa di là cosa farà e come si comporterà. Va bene Luigi, cioè la delusione di tanti anni diventa la delusione di sempre e per sempre. Io credo che l'atteggiamento di Luigi sia molto diffuso nell'opinione pubblica italiana, non credo che sia un'eccezione. Guido da Bologna, prego Guido. Buongiorno, Giannino. Io la prego di aiutarci a eliminare dal panorama politico, dalla vita di questo paese. Eliminare dalla vita, Guido, già sono termini che mi fanno un po' rabbrividire. Cioè, no, eliminare dalla vita politica del centro. Non vogliamo più sentire centrodestra e centrosinistra. Vogliamo una destra, vogliamo una sinistra. Il centro vada per conto suo, non ci rompa. Ok, ma il PD, il PD lei, Guido, lo vede con Casini o con Vendola, per tornare alla questione? Io lo vedo con Vendola perché altrimenti non c'è futuro in questo paese. Non ok Guido, questa era la risposta fine del comizio. Fabio da Firenze. Sì, buongiorno. Dica. Sì, volevo dire che Bersani è una bravissima persona, però ce lo vedo molto bene come ministro dell'economia. Il PD deve tirare fuori il jolly per vincere e governare 5 anni per il paese. Pensiamo al paese. E il jolly si chiama? E questo vuol dire Renzi. Io parlo con persone da nord, guardi, io parlo persone da nord a sud per lavoro tutti i giorni e chi comincia a parlare di politica ma dice mai Renzi. Fabio, lei pone un problema fondamentale perché nel partito, nel PD, lo sappiamo tutti, molti dicono quella è pura comunicazione, troppo sveglio il ragazzo, sulle questioni di fondo non ci convince perché è uno strappo rispetto alla storia. Come consenso potenziale, Fabio, tu sollevi la questione che è la questione della candidatura a Renzi, però uno che si propone come rottamatore di un'intera classe dirigente vuole arrivare a spallate sfondando la porta e le mura e fa parte di una strategia di comunicazione. Come capisci però chi sta nelle mura e nella porta dice vabbè senti se cominci così vediamo se alla conta poi ce la fai. Grazie anche a Fabio. Allora Claudio Sardo, torniamo alla questione, ma dare a Grillo del fascista in quel modo. Ai milioni che pensano come l'ascoltatore napoletano, secondo te aiuta a farle riflettere o rischia di confermarne una scelta e di accrescerne il numero? Vabbè, certamente, diciamo, da un punto di vista utilitaristico, sicuramente, insomma, così a occhio e croce non è stata una scelta vantaggiosa. A parte che Bersani ha detto che è fascista è il linguaggio, non ha detto che fascista è Grillo, giusto. non ha detto questo è un linguaggio fascista, attenzione, perché la violenza del linguaggio spesso in politica porta delle conseguenze molto gravi. Io però credo che abbia fatto bene, io penso che abbia fatto bene perché il linguaggio sta diventando di una violenza insostenibile. Noi abbiamo fatto finta per troppo tempo, abbiamo accettato il linguaggio della Lega e il linguaggio della Lega ha inciso sulla politica italiana e sulla qualità della politica italiana. Adesso, diciamo, ci sono dei signori che insomma, per strategia comunicativa, per cercare di sovrastare il populismo della destra, usano un linguaggio populista molto più violento. Cioè, ricordiamo che nei blog di Grillo si parla continuamente di zombie, vi seppelliremo vivi, funerale, siete morti che camminate, cioè, c'è sempre la morte, l'omicidio, tu dici vabbè, sono parole, non contano niente. Insomma, anche Bossi poi ha seminato in larghi tratti della sua esperienza politica una cultura violenta che poi ha prodotto dei risultati. Io penso che sia arrivato il momento della responsabilità. Io credo che naturalmente tu dicevi prima, ma se Di Pietro e Grillo si mettono insieme arrivano primi. Beh, se si mettono insieme arrivano primi è giusto che governino il paese, faranno delle proposte, porteranno il paese fuori dall'euro, cacceranno gli immigrati, faranno tutto quello che vogliono. Cioè, se hanno, io rispetto il voto democratico. Il problema della responsabilità non è solo dei politici o di noi giornalisti, è anche dei cittadini. I cittadini devono andare al voto, oppure scelgono di non votare, quindi di far decidere agli altri, però loro devono sapere che stanno decidendo il futuro dell'Italia e dei loro figli, che stanno scegliendo qual è l'equilibrio politico che porterà il paese nei prossimi 5 anni fuori da questa crisi gravissima. Ci troviamo di fronte a un'elezione di portata storica e ognuno si prende le sue responsabilità. Io credo che la sinistra italiana, il centro-sinistra italiano, i democratici, questo campo che si organizza attorno a Tabacci, Renzi, Bersani, Vendola, debba fare una proposta di governo e debba escludere assolutamente, perché il rischio è che noi finiamo come la Grecia. Cioè, se noi da un governo tecnico, indipendentemente da come valutiamo alcune scelte, io penso che alcune cose sono state positive, alcune molto positive, alcune molto negative, ma questa esperienza non può continuare, perché vorrebbe dire che la politica italiana è incapace, le istituzioni italiane, la democrazia italiana è incapace di fare ciò che fanno tutti i paesi dell'Occidente, i paesi più evoluti, e cioè decidere tra alternative politiche e affidare il governo a una forza politica che fa delle proposte, presenta degli uomini e dice che vuole andare in quella direzione. Questo è il momento di arrivare a questa scelta. Io penso che, vista la gravità della situazione italiana e la necessità di un largo consenso, sia opportuno, giusto, come è avvenuto nelle grandi fasi di svolta, che la sinistra trovi un'alleanza parlamentare con un'area moderata che penso abbia, indipendentemente dai numeri che ha, perché insomma Berlusconi non è passato invano in quell'area e credo che ne ha mutato molto le caratteristiche, la fisionomia, persino l'identità, e quindi non credo che quest'area moderata centrale riuscirà ad avere una grande forza, nonostante ha molte personalità che ruotano attorno ad essa, però io penso che possa, per un periodo di tempo limitato, collaborare con la sinistra per un progetto di ricostruzione anche delle istituzioni che sono state fortemente indebolite da una torsione no, no, tipo presidenzialista senza mutare la Costituzione, cioè, sì, sì, da uno scontro di contrapposto senza mutare la Costituzione, pretendendo invece che fosse mutata, perché avevamo anche una legge elettorale che in realtà poi consentiva agli italiani, che in qualche misura erano loro, anzi in una misura diretta erano loro, a scegliere chi governava, però senza aver cambiato la Costituzione. Io a questo punto interrompo, perché prima di passare a due altre telefonate ho un po' l'impressione che tutti facciano il conto senza un altro oste che manca, sia nel conto di Grillo e di Pietro, che secondo me si fa molti conti elettorali, per questo, da questo i toni che ha preso negli ultimi mesi, dall'altra parte un pochino anche nei ragionamenti che vedo nel PD. Il conto è dare per scontato che chi ha votato Berlusconi negli anni resta a non votare Berlusconi, e di questo in una buona percentuale di sondaggi oltre amministrativi ci dicono che è così, tranne il fatto che poi ha una forza residua il comico che sta dall'altra parte oltre Grillo, cioè Berlusconi che torna in campo e può benissimo arrivare intorno, diciamo, al 20, perfetto. Però il problema è che quello che manca, cioè quasi uno su due dei suoi elettori, è come se non votasse niente in campo o si distribuisse tra quello che c'è. Lì è un po' fare i conti senza l'oste, cioè finché non si capisce che legge elettorale i partiti presenti in Parlamento partoriscono, non si capisce come se qualcuno si organizza per dare una prospettiva su concretezza programmatica e serietà a un'Italia che ha la forza per tenersi in piedi per i fatti suoi, rivolgendosi esattamente a quella parte di elettorato deluso e a quella parte di elettorato che ha dei dubbi poi che possa essere il PD che torna a Vendola davvero una buona scelta. Questo è tutto da vedere, è tutto da vedere. Io qui faccio il conduttore naturalmente radiofonico e non faccio il portatore di un'idea. Noi stessi però, siccome non è un partito, abbiamo lanciato quell'appello che sta andando avanti di giorno in giorno, siamo arrivati a quota 25.000 aderenti, ma è sull'idea per il momento di dire: ragazzi, noi abbiamo queste idee per uscire dal casino italiano e fermare il declino, non ci pare proprio che tornare alle vecchie logiche politiche da una parte o dall'altra sia la cosa giusta. Io non credo in definitiva che tutti gli elettori delusi del vecchio scassatissimo ridicolo centrodestra siano disposti solo a dividersi tra Grillo da una parte, molti di loro l'hanno fatto quando si è votato nel nord, e un PD che rispettabilissimamente fa le proposte che fa, però vedremo, sentiamo come la pensano rapidissimamente. Danilo da Brescia, prego Danilo. Buongiorno, io volevo esprimere soltanto un'idea, un parere. Non riesco a capire come mai è fascista l'idea di Grillo, in cui viene detto che la nostra rappresentanza politica è una classe politica ormai vecchia, ormai logorata, che continua a parlare soltanto di legge elettorale, di poltrone, di potere, mentre invece è fascista, non è fascista l'idea di questi rappresentanti politici che nel momento in cui descrivono Grillo lo descrivono soltanto come un comico, come una persona che è brava a far ridere, che esprime soltanto il malcontento delle persone, quando invece ha un programma. Il Movimento 5 Stelle ha un programma ben definito e molto forte, con delle idee, con delle idee di cambiamento reali. Io è questo che non riesco a capire. Ok, quindi Danilo dice: no, Grillo non solo non è come dice Bersani, ma Grillo poi ha una proposta concreta, non è solo la scopa contro la vecchia politica, però che si conferma come vecchia politica. Strade, dopo un minuto torniamo. 9 in punto, la versione di Oscar. Riparte di Henry, c'è un'intervista molto interessante oggi, l'ho trovato su Italia Oggi, al mio amico Luca Ricolfi. E Luca Ricolfi in questa intervista svolge alcune considerazioni che io condivido molto. Innanzitutto dà un giudizio negativo sul termine usato da Bersani nei confronti di Grillo e spiega la ragione. In sintesi è quella che vi ho già detto prima. Dopodiché invita tutti a riflettere sul fatto che le politiche concrete sostenute dal governo Monti in questi oramai 10 mesi hanno avuto un effetto, un impatto molto forte sugli italiani. Tutti i sondaggi secondo me confermano che Luca Ricolfi ha ragione nel dire questo, e che Monti agli italiani è apparso continuista ma ancora più determinato sulla linea di accrescere le tasse, e credo che sia questa l'esatta cosa richiamata anche da molti messaggi di voi, molte telefonate, cioè l'IMU, gli esodati eccetera eccetera, sono vicende che hanno colpito gli italiani portando gli indici di fiducia al minimo da 16 anni a questa parte delle famiglie, cioè da che sono rilevate, e dice alla fine: guardate che tutti si fanno i conti ma non capiscono bene se ci sarà un'offerta politica poi intorno ad alcune aree come quella di cui stavo parlando prima, di fermare il declino, perché quello potrebbe cambiare le cose. Vedremo se Luca Ricolfi ha torto o ha ragione. Sentiamo come la pensa ancora rapidamente Roberto, che ci chiama da Milano. Prego Roberto. Sì, buongiorno. Sì. Premesso che, come diceva l'ascoltatore di prima, della riforma elettorale, della legge elettorale, interessa poco agli italiani, ma tant'è, la faranno, la devono, sì, fare, e si stanno mettendo d'accordo per farla, sì, in modo che non cambi niente, mi sembra. Perché non danno un segnale introducendo poche norme che per esempio prevedono due mandati e poi a casa? Perfetto Roberto, esempi concreti per dire rispetto alle vecchie leadership. Sa, le vecchie leadership politiche nei partiti dicono sempre: ma chi siete voi per proporre questo? Del resto Giuliano Amato ha detto che glielo hanno chiesto ancora nel 2001, Cruciani l'ha mandato in onda tutto il pomeriggio per dire come è stato forzato a rimanere in Parlamento. Lo so, forzati, però io sarei anch'io per mettere dei limiti fissi, a dire la verità, oramai. Cinzia da Parma, prego Cinzia. Sì, buongiorno. Sì. Volevo solo parlare dell'esperienza che abbiamo vissuto a Parma e, sì, di quello che il PD è riuscito a non fare. Lei era un'elettrice del PD? Ma io sono stata anche di più, perché sono stata all'interno del gruppo dirigente del Partito Democratico, sono entrata quando si è costituito. Perfetto, e la sconfitta negativa del PD e la vittoria del Movimento 5 Stelle come l'ha vissuta a Parma? Beh, io ho sostenuto il sindaco del Movimento 5 Stelle perché dopo essere entrata all'interno di questo partito non avevo mai fatto politica precedentemente. Ho provato a portare quello che si dice, no, il pensiero della società civile, è un brutto termine. Però ha trovato rispondenza? No, assolutamente no, cioè è un altro il modo di pensare, completamente no, differente. No, no, dico, nel Movimento 5 Stelle ha trovato rispondenza all'idea di portare idee della società civile oppure è rimasta delusa? Ah beh, assolutamente sì. Assolutamente sì. Quindi lei sostiene anche l'esperienza di Parma, le difficoltà di Pizzarotti eccetera non sono tali da autorizzare comunque di pensare che nel Movimento 5 Stelle ci sia ancora molto da fare prima di considerarlo un partito dove ciò che si dichiara, cioè le idee dal basso, davvero poi emergono. Lei dice vale ancora la pena, sì. Sì, decisamente questa io oggi vedo come l'unica possibilità per poter interagire con la politica. Perché perfetto, il problema grosso è stato questo, è stato che ci ha tagliato fuori completamente. Ok, troppa politica chiusa in se stessa. Alice Cinzia, ex dirigente del PD a Parma. Alberto da Cuneo, come la pensa? Alberto? All'iniziativa fermare il declino, sono con voi, non ho ancora firmato ma presto lo farò. Volevo solo dire che questa politica è troppo semplice così, loro governano, si fanno le regole, nessuno li può mandare via, un muro di gomma continuo. Ci va gente nuova, che sia Renzi, Grillo, ma qualcuno che veramente abbia Alberto, sia Renzi, Grillo non è proprio la stessa cosa. No, lo so, però gente nuova, capisce? No, ho capito, anche Alberto dice gente nuova. Allora, noi abbiamo Walter Verini, un minuto e mezzo a lui, e poi l'ultimo minuto e mezzo lo diamo a Claudio Sardo. Verini, noi abbiamo aperto i microfoni oggi chiedendo, volete Vendola o volete Casini come alleato, scelta alleato per il PD? Molti tornano a dire l'errore per il PD è dare a Grillo del parli come un fascista. Come la pensa Verini su questo? Io intanto, più che con dire stai con Vendola o stai con Casini, io penso che il PD debba dire innanzitutto per fare che cosa. E naturalmente è utile discutere e interloquire con Vendola, con cui governiamo una regione importante, ma il prossimo programma, che vedrà certamente al centro il PD, dovrà essere coerente con quella che si chiama l'agenda Monti. Dovremo rispettare i vincoli del pareggio del bilancio, dovremo rispettare i vincoli europei, naturalmente cercando di cambiare le politiche nel senso della crescita e dell'equità. Quindi quella continuità, se Vendola la condivide, io la considererei un fatto molto positivo, e naturalmente considero un fatto altamente positivo che ci sia un rapporto con un'area centrale, che però non si esaurisce in una sigla, UDC o Casini, ma è un mondo molto più ampio, fatto di forze sociali, di personalità, che debbono essere, secondo me, insieme al Partito Democratico per continuare e migliorare una stagione che sarà ancora terribile. Sarà ancora terribile. Io su questo sono molto molto d'accordo, tant'è che a questo chiedo come ultima domanda a Claudio Sardo: l'idea di un PD che torna a dire amici, ci candidiamo a un governo politico e riapriamo a Vendola, come ha fatto Bersani, come ci hai spiegato tu all'inizio, non rischia di sembrare, rispetto all'agenda internazionale che è segnata e resterà molto segnata, come ci diceva adesso Walter Verini, deputato del PD, come un, mettiamo nell'angolo questo perché un governo politico può cambiare le cose, ancora più che in Francia, insomma? Beh, certamente la scommessa, diciamo, del PD, naturalmente sempre che sia suffragata dal consenso, perché noi facciamo sempre dei discorsi astratti, però diciamo per governare un paese ci vuole una certa massa critica di voti, ricordiamolo, perché non è che si può governare sulla base di astrazioni. Diciamo, se il PD secondo me ha il dovere storico di fare una sua proposta coerente al paese, e vedere quanti consensi ha e provare a costruire un governo parlamentare che abbia la capacità di portarla avanti. Io penso che il successo dell'iniziativa del PD, allora penso innanzitutto che Monti ha alzato molto l'asticella della qualità della rappresentanza italiana, cioè è evidente che oggi in Europa si attendono delle persone che siano in grado, come Monti, di reggere quel peso e di avere quella credibilità e quindi di avere di essere comunque degli interlocutori affidabili. Tu lo sai che questo relativamente ai temi e ai rappresentanti dei temi della sinistra antagonista in Europa non è esattamente questa la direzione, quando dici alzare l'asticella che si aspettano, giusto o sbagliato che sia, voglio dire, però si aspettano questo perché, come tu sai perfettamente, per esempio il successo che ha avuto il movimento di Grillo, il 10% 12% potenziale che ha per le cose che dice Grillo, già incidono, cioè i responsabili dei fondi internazionali, quando si chiedono cosa avviene dopo Monti, è vero, ma figura. Già si domandano, scusa, ma quel signore lì che dice che dobbiamo uscire dall'euro pesa in Italia, questo ci fa alzare, cioè Grillo fa danni già non avendo nessun potere per la credibilità del paese, perché è chiaro che quando delle forze antagoniste, populiste di quelle dimensioni acquistano un consenso, diventano poi un'ipoteca sul futuro del paese. Ok, stop, devo chiedere fine, devo porre fine purtroppo all'intervento del direttore dell'Unità e ringraziare ancora Walter Verini che ci ha raggiunto solo all'ultimo secondo, quindi solo due minuti. Ammetto a cadervi negli ultimi 10 secondi, appuntamento a domani, perdonate di dire spero di trovare la macchina, in sto caso almeno i suoi resti visto quello che mi hanno fatto stanotte. Detto questo, temo che per la svolta politica ancora i partiti siano un po' indietro, la gente impugnerà la scopa. Radio 24. La passione si sente.